Dopo aver cenato, allattato e messo a dormire il bambino, si sedettero insieme sulla porta e guardarono le stelle. Erano più uniti, più sposati di quanto non lo fossero mai stati. Non pensavano al grano, ma riposavano insieme nella sicurezza che aveva dato loro. L'aria era ancora calda, ma l'ardore del calore del vento se n'era andato con il sole. Una brezza si muoveva sulle erbe con un suono simile al respiro tranquillo della terra addormentata. Dall'altezza infinita del cielo, ogni grande stella pendeva sospesa su un filo invisibile. Una gentilezza sembrava racchiudere la terra e il cielo e tutti gli esseri viventi. Il mattino seguente andarono a vedere il grano. Era quasi maturo. Le lunghe teste si afflosciavano con il peso del grano nelle bucce barbute e luci verde oro e ombre fulve le attraversavano. Charles guardò a lungo i chicchi nel suo palmo e disse con riluttanza: «È meglio aspettare ancora 2 settimane, forse 10 giorni, se questo caldo continua». Non c'era vento, il cielo stava impallidendo davanti al terribile sole, l'aria cominciava già ad agitarsi in fogli vitrei e il volo delle cavallette produceva un suono scoppiettante tra le erbe della prateria, come se stessero crocchiando per il calore. A metà mattina Charles arrivò dal campo dove stava spaccando la zolla. «Iuh!» disse, «oggi è un caldo torrido, i cavalli non hanno retto, ho dovuto metterli nella stalla dove c'è l'ombra, se continua così alla fine della prossima settimana dovrò tagliare il grano». Lui cercò di prendere l'annaffiatoio nel secchio dell'aquila e disse rapidamente, «tu siediti e rinfrescati, io vado a prenderne un po' di fresca». «Non perché tu lo noti, a cosa ti serve un marito muscoloso e pigro in giro per casa?» Il sudore gli affiorò all'improvviso sul labbro superiore, una goccia gli colò sulla guancia e i muscoli del collo scintillarono umidi. Si tolse il cappello, si pulì la fronte e il collo con il fazzoletto. «Perbacco, non riesco ad asciugarli. All'aperto fa troppo caldo per sudare». Andò a fischiare per l'acqua, tornò fischiettando e si sedette a giocare con il bambino. Caroline stava mettendo la cena in tavola quando sentirono l'urlo. Si ripeté ancora e ancora, le urla frenetiche di una donna. «Tu resta qui», disse Charles battendosi il cappello. Prese la pistola e se ne andò. Il bambino continuava a gorgogliare e a scalciare. Caroline si mise la cuffietta per il sole. All'aperto il caldo era vertiginoso. Non si allontanò dal bambino più della cima del sentiero. L'aria vitrea si muoveva verso l'alto con ondulazioni visibili, le sue oscillazioni rompevano i riflessi scintillanti del cielo che si stendevano in lunghe strisce sulla terra. Attraverso distorsioni scintillanti, la signora Svensson stava arrivando, correndo, e Charles correva verso di lei. Si avvicinarono rapidamente. La signora Svensson gridò, ansimando qualche parola di avvertimento e di terrore. Si strinse il fianco, si girò e puntò verso l'alto. Caroline vide la mano che indicava trasformarsi in un pugno agitato verso il cielo. Una nuvola proveniva da nord-est e si muoveva rapidamente sopra il sole. Era una nuvola che Caroline non aveva mai visto. Conosceva l'oscurità ammassata nelle teste di tuono, il terribile cielo verde da cui il ciclone si immerge, si solleva e si immerge di nuovo con il suo tentacolo nero, ma questa era una nuvola ineffabilmente bella, morbida come un raggio di luna, iridescente come la madreperla. Copriva il sole e il sole lo illuminava dolcemente, con gentilezza. Il bordo della nuvola avanzava rapidamente, in modo uniforme, si muoveva sopra la prateria, senza vento, con la velocità del vento. La signora Svensson cadde in ginocchio, singhiozzando, con il grembiule in testa, si alzò di scatto e corse singhiozzando verso la sua baracca di zolle. Charles distolse lo sguardo dalla nuvola per seguirla e scosse la testa, perplesso, poi tornò a guardare verso l'alto. Caroline pensò che ci fosse uno scroscio come di pioggia sull'erba intorno a lei, ma riuscì a vedere solo frusci di fili e cavallette che spuntavano. Charles le chiese: «Caroline, cosa ne pensi di...» Poi lo vide rimanere come congelato, gridò: «Dio santo! Le cavallette uscivano dal cielo, da quella nuvola! Cadevano a decine, a centinaia! L'aria scintillava con le loro ali lucenti che scendevano! La nuvola era costituita da cavallette!» Charles corse verso il fienile, gridando: «Il grano! Riempite la vasca, mettete a bagno le coperte, il fuoco! Forse il fuoco lo salverà!» Due. E non rimase alcuna cosa verde. La discesa delle cavallette è stata un incubo, un orrore, ma incredibile. Una certa resistenza salvifica in Chas e Caroline si rifiutava di crederci, si rifiutavano di credere che non avrebbero salvato il grano. La giornata senza vento le aveva incoraggiate. Potevano controllare i fuochi che accendevano. Sicuramente le cavallette con centinaia di chilometri di prateria davanti a loro avrebbero evitato le fiamme. Prima che le creature alate cessassero di cadere dal cielo, Charles aveva guidato i cavalli sbuffanti e tremanti per tre volte intorno al campo di grano. Tre solchi di terra rovesciata proteggevano il grano dal fuoco che aveva appiccato all'erba selvatica. Spettava a Carola inseguire il fuoco lungo la striscia di terreno arato per evitare che le fiamme strisciassero o saltassero nel grano. Charles aveva il compito più difficile di combattere il fuoco nell'erba. Se gli fosse sfuggito, l'intero paese sarebbe stato bruciato. Nulla poi avrebbe potuto tenere le cavallette fuori dal campo. Ma non c'era vento. Il fuoco scoppiettava allegramente, mandando su onde di calore sempre più feroce verso il calore del sole. Tutta l'aria vitrea era in movimento. Caroline correva avanti e indietro, ansimando, battendo su ciuffi d'erba infuocati, schiacciandoli con i piedi nella terra. Per alcuni istanti perse di vista Charles. Il fumo arrivava a folate, pungendole gli occhi e la gola. Con l'odore del fumo pulito c'era un altro odore, più oleoso. Le cavallette, catturate dal calore, cadevano senza ali nel fuoco. I loro corpi scoppiavano con un suono morbido e schioccante. Sembrava che questa follia di combattimenti non fosse mai iniziata né sarebbe mai finita. Non c'era mai stato e non ci sarebbe mai stato altro che questa battaglia feroce, implacabile e disperata. Eppure finì. L'ultimo ciuffo d'erba bruciata bruciava sul terreno annerito. Caroline si sciolse in un tremito, non avendo nulla a cui appoggiarsi, ondeggiava e la terraferma la sosteneva. Era bello sdraiarsi. Charles si avvicinò a passo di marcia e diede un'occhiata veloce per vedere se stava bene. Era sporco di fumo. Le ciglia erano sparite e i peli delle braccia bruciati. Sembra che non stiano mangiando nulla, disse con tono sommesso e tossì. Forse era un falso allarme. Caroline si alzò a sedere, poi si alzò in piedi, sorreggendo le ginocchia. Il grano era come prima, verde oro e bellissimo, con un fruscio di cavallette sopra di esso. Vai a riposare, disse Charles. Io continuerò a fare un bel fuoco fitto. Questo gli farà bene. Camminava tra cavallette spesse come spruzzi intorno alle ginocchia. Scricchiolavano in modo nauseante sotto i suoi piedi e non poteva evitare di calpestarle. Le cavallette erano nei capelli, nelle maniche, nelle gonne. Le sue orecchie cercavano di escludere il fruscio delle loro ali. Meccanicamente si prendeva cura del bambino. Alla solita ora cucinò la cena e quella sera diede da mangiare ai cavalli e li condusse all'acqua. Charles stava tagliando l'erba della brughiera e la stava ammucchiando sulla striscia bruciata intorno al campo di grano. Il fumo denso si alzava e si diffondeva nell'aria immobile. Caroline tenne la cena in caldo per molto tempo e alla fine lasciò che si raffreddasse. Si sdraiò senza spogliarsi e dormì un po'. E alla fine arrivò Charles, troppo stanco e agitato per mangiare. Si arrabbiò quando lei lo esortò a riposare. «Non sono un bambino. Perdere un po' di sonno non mi farà male», disse. Lei andò con lui nel campo di grano. Alla luce delle stelle agitarono i cumuli di erba fumante, seppellirono le fiamme sotto masse di steli inumiditi, trattenendo il fumo pesante che si spandeva nell'aria. L'alba giunse torbida attraverso il fumo sospeso sopra il campo di grano. Quando i primi raggi del sole attraversarono la prateria, un suono si levò da essa. Era un piccolo, immenso suono di innumerevoli minuscole mandibole che mordicchiavano, scricchiolavano. Il campo di grano cominciò a tremare, gli alti steli tremavano. Qua e là uno si muoveva come se stesse lottando, oscillava e si appoggiava storto ai suoi simili. Charles gridò rauco e si tuffò nel campo. Non si erano mai addentrati nel grano, nemmeno per esaminarlo, non volendo abbattere uno stelo prezioso. Ora Charles li calpestava, li strappava a bracciate, gridando: Caroline, presto! Vieni ad aiutarmi, presto! Le sbavature disposte fittamente sul campo potrebbero salvarne una parte. Charles si è messo ad inveire: sciocco, stupido, perché non l'ho fatto prima? Era come lacerare la propria carne, strappare le radici del grano, ammassare cumuli di grano in maturazione e dargli fuoco. Lavoravano nel fumo, nel calore, distruggendo ciò che volevano salvare. Il sacrificio di una parte poteva salvare il resto. Calpestavano gli steli spessi, liberavano gli spazi, soffocavano le fiamme del grano che bruciava con la terra sulle sue radici. Attraverso il fumo Charles gridò: Caroline, esci da questa situazione, torna alla piroga e resta lì. Continuò a lavorare finché lui non si avvicinò. Lei disse: No, Charles, io. Tossendo nel fumo, gracchiò: Uscite, vi dico! A cosa stiamo pensando? Stai allattando il bambino! Le lacrime degli occhi arrossati gli imbrattarono le guance. Ai margini del campo sentì di nuovo quel suono di rosicchiamento. Si alzò e guardò il grano. Parecchi steli si muovevano a scatti, come se stessero lottando. Il suono dei morsi proveniva da tutta la prateria. Non era così forte come il volo delle cavallette davanti alle sue gonne, ma era continuo. Non aumentava né si attenuava, non si fermava. Le erbe della prateria avevano ovunque un movimento irrequieto, non provocato da alcuna brezza. Oh, le dava il voltastomaco sentire le cavallette che si schiacciavano fino a diventare melma sulle suole delle scarpe. Gli Svensson stavano bruciando macchie intorno al loro povero piccolo campo di patate e rape. Fuori dalla porta della piroga si tolse le scarpe, all'ingresso si tolse il vestito e la sottoveste, scuotendo via le cavallette. Il bambino giaceva piangendo nella sua culla. Lei gli parlò e cantò mentre si lavava nel lavandino. Poi lo prese in braccio e si sdraiò per riposare. Lui piangeva, affamato. Quando fu più fresca lo lasciò allattare e lo accarezzò finché non si addormentò. Poi andò a prendere l'acqua dal ruscello e preparò un'abbondante bevanda di aceto, melassa e acqua da portare a Charles. Beve con gratitudine, scolando l'ultima goccia dal piccolo secchio. La mano gli tremava, il rumore del mordicchiamento era tutto intorno a loro. E guardando negli occhi iniettati di sangue, lei trovò il coraggio di dire: Charles, è meglio che ti riposi, non è? Gridò: Lo salverò o morirò provandoci. Non sono ancora stato preso neanche di striscio, mio Dio, non metterti contro di me. Gettò il secchio a terra e la lasciò come se la odiasse. Caroline raccolse il secchio. Tra i fuochi di fango c'erano ancora delle chiazze di grano. Le loro cime erano disposte a creste, come erba depositata dal vento. Ogni lame e ogni testa di grano barbuto tremava un po'. Davanti agli occhi di Caroline uno stelo alto cadde, poi un altro, e una cavità nelle cime rigate scivolò più in basso. Un turbine di cavallette si alzò da lì. Ciò che temeva era che Charles sarebbe stato ucciso da un'insolazione. Ogni ora gli portava una bevanda fresca, gli portava del cibo, ma lui non si fermava a mangiare, il suo sguardo selvaggio la spaventava. Non riuscì a convincerlo a lasciare il campo dove stava lavorando al caldo sotto il sole cocente. Quella sera fece di nuovo le faccende domestiche e andò al campo decisa a far riposare Charles. Lui non le diede retta, ma il sole stava finalmente calando. Il bambino aveva le coliche, lei non poteva lasciarlo di nuovo. Gli diede da bere dell'acqua alla menta e camminò pazientemente su e giù, accarezzandogli il sederino mentre lui strillava sulla sua spalla. Lo portò sul sentiero e guardò il fumo che si alzava luccicante alla luce delle stelle. Ogni passo schiacciava le schifose cavallette e anche di notte si poteva sentire il loro mordicchiare. La mattina dopo, il bambino dormiva esausto. Caroline portò a Charles del tè e del pane. Lui bevve con sete e soffocò e ingoiò qualche boccone di pane. «Ne salveremo un po', disse guardando il campo devastato. Non molto, ma qualcosa. Credo che quasi un decimo sia ancora in piedi. Non posso prenderlo tutto, lo sai, non è possibile. Ne resterà un po', abbastanza per la farina e le sementi. Se abbiamo solo le sementi, posso guadagnare tempo su quei debiti se faccio un raccolto. Risparmierò abbastanza per le sementi se continuo a fare questo lavoro. Caroline provò una piccola speranza. Se fosse rimasto anche solo qualche stelo qua e là, lei e Charles avrebbero potuto raccoglierli con cura, avrebbero potuto vivere quell'inverno con la selvaggina e le patate e delle zolle e fare un altro raccolto in primavera. Poi il sole nascente le colpì le spalle con il suo calore, il tempo non sembrava passare. Rimase fermo, tremando un po' sotto la crudeltà del sole, tremando un po' per l'incessante metallico masticare delle cavallette. Quel pomeriggio non c'era più un filo d'erba in piedi nella prateria. L'erba giaceva come falciata, eppure era agitata senza sosta. Portando un secchio d'acqua dal torrente, Caroline si fermò a fissare i piccoli alberi di prugne. Non era rimasta nemmeno una foglia. Entrò nella piroga e si mise a mescolare l'aceto e la melassa per la bevanda di Charles. La porta dietro di lei si oscurò. Lei rimase immobile un istante, poi si voltò. Gli occhi di Charles erano rossi sul viso sporco di fuliggine. Raddrizzò le spalle e cercò di parlare con forza attraverso la gola secca. Beh, Caroline, il gioco è fatto, non posso. La sua bocca si storse e disse brutalmente: Il grano è andato, ogni singolo stelo. Si lasciò cadere pesantemente sulla panchina. Caroline sapeva che sarebbe successo. Lo aveva capito quando era caduto il primo stelo di grano, l'aveva capito quando erano iniziati i morsi. Ora era successo e qualcosa dentro di lei gridava che non poteva essere vero. Perché non dici qualcosa? Charles si infuriò con lei e si coprì il volto con le mani. Caroline si riprese all'istante. Non doveva lasciarlo crollare. E credo che, se non c'è grano, ce la caveremo anche senza, disse tranquillamente. Finora ce la siamo cavata bene senza. Sì, ma non si erano mai indebitati prima. Misurò la melassa, versò l'aceto, mescolò il composto in continuazione. Sto preparando dell'aceto e dell'acqua, è meglio che tu ti lavi e bevi finché è bello fresco. E con sua grande sorpresa iniziò a piangere. La sua bocca si contorceva senza controllo e le lacrime le uscivano dagli occhi. Continuò ad agitarsi finché non sentì Charles al lavabo, poi si asciugò il viso e si soffiò il naso. Charles si pulì con delicatezza le braccia ricoperte di vesciche, si passò il pettine tra i capelli bagnati e vuotò la tazza che lei gli porgeva. Caspita, Caroline, questo è proprio il massimo. Hai caldo e sei stanco, rispose lei. Anche nella piroga il suono incessante e folle del morsicare rodeva le loro orecchie. Le lacrime gli colmarono le palpebre cotte. La attirò contro di sé dove si era seduto sulla panchina e lei sentì il singhiozzo che scuoteva il corpo di lui quando le voltò il viso contro la spalla e capì come le si era aggrappata a lui quando era nato il bambino. Lui si stava aggrappando a lei in quella miseria troppo grande da sopportare da solo. Ecco, disse lei, è tutto a posto. Avevo paura che ti prendessi un'insolazione. Andrà tutto bene. Oh, Caroline. Se non fossi stato così sciocco, quei debiti che ho accumulato, come farò a pagare un debito di quasi 200 dollari? Nemmeno la farina per quest'inverno, nemmeno le sementi. Non importa ora, te la caverai benissimo. Sei stanco, sei esausto, ti sentirai meglio quando avrai dormito un po'. Charles dormì pesantemente, esausto. La mattina dopo aveva il viso rovinato, gli occhi gonfi. Dopo aver sbrigato le faccende e fatto colazione, lei lo convinse a sdraiarsi di nuovo. Si riaddormentò subito e Caroline rimase seduta in silenzio per non disturbarlo. La sua testa era pesante e la lasciò affondare contro il braccio che aveva appoggiato sul tavolo. Sonnecchiando, era sempre consapevole di Charles nella cuccetta e del bambino sul pavimento. Aprì gli occhi e vide il bambino immerso nei suoi piedini rosa. Si accigliò intensamente, fissando con gli occhi leggermente sbarrati le cose inspiegabili che si agitavano intorno a lui e pazientemente cercò di afferrare le dita dei piedi che sfuggivano alla sua presa, incerta. Improvvisamente Caroline si accorse di un nuovo suono, un suono raspante, ticchettante, graffiante. Le salì lungo la spina dorsale sul cuoio capelluto, si alzò in piedi e vide lo stipite della porta incresparsi come un serpente. La linea nera e pulita era squamosa e si increspava, riversandosi verso l'interno. Raccolse il bambino, lo avvolse nel grembiule e lo coprì con le braccia. Poi vide chiaramente la cosa. Le cavallette stavano entrando nella piroga, i dorsi lunghi e rigati si agitavano l'uno con l'altro, centinaia, migliaia di teste dure, triangolari, con gli occhi a forma di pomello, con le mascelle appuntite e mordicchianti, stavano scendendo, girando e muovendosi verso l'interno, oltre lo stipite della porta. Gridò: «Charles! Charles!» La porta era aperta verso la riva del torrente. Afferrò il chiavistello e in un istante vide l'intera terra strisciare, il sentiero, la riva del torrente, la prateria squamosa e strisciante. La porta si richiuse orribilmente, scricchiolando cavallette. «Charles!» Lui l'afferrò. «Caroline, cosa? Sei malata?» I suoi denti battevano. Lei gridava: «No, no! Uccidile! Uccidile!» Nel buio le sentiva strisciare. Charles accese la lampada. Lei rimase a tremare mentre lui le uccideva. Le spazzolò via dal soffitto, dalle pareti, le schiacciò con gli stivali, le cacciò dalla cassetta del fieno, dalla stufa, le scosse dalle lenzuola e le spazzò da sotto la branda. Poi guardò nel secchio dell'acqua. «Buttale fuori!» gridò. «Non so, vuoi che ne prenda di più?» «No, no, non aprire la porta! Lo faccio bollire!» Scremò via dall'acqua con il mestolo le bestiacce morte. Si vergognava di comportarsi così e con uno sforzo smise di tremare, rilassò le mascelle serrate. Poi il bambino emise un urlo acuto di dolore. Caroline lo scoprì rapidamente sul suo grembo e dalla sua morbida ascella una cavalletta balzò, la colpì sulla guancia. Vi mosse gli artigli e strisciò. Lei la schiacciò e cominciò a piangere forte come una bambina. Per un certo periodo non riuscì a smettere di piangere, nemmeno tra le braccia di suo marito. Quando si acquietò, sentirono le cavallette strisciare sul vetro della finestra. Erano un'ombra screziata che strisciava costantemente verso il basso, e da questo capirono che la terra intera stava ancora strisciando alla luce del sole. Per tutta la notte le creature strisciarono e per tutto il giorno successivo. Charles uscì per occuparsi dei cavalli. Quando tornò, Caroline non gli fece alcuna domanda. Rimasero seduti tutto il giorno nella piroga dietro la porta chiusa. «La ferrovia è partita», disse Charles. «Questo non fermerà la ferrovia. Tornerò a lavorarci per un po'. Oh, non siamo ancora stati fregati. Per un po' ce la caveremo». «Certo che lo faremo», disse Caroline. «Lo abbiamo sempre fatto». Lei sapeva quanto lui odiasse tornare a lavorare alla ferrovia. Era stato diverso quando avevano iniziato. Da un anno aveva la sua terra, era indipendente. Era difficile tornare a obbedire agli ordini di altri uomini per il salario, ma non si poteva fare altrimenti. Quando erano in silenzio, potevano sentire gli artigli sul vetro della carta. Nel tardo pomeriggio, la carta oleata risplendeva chiara. Charles aprì la porta. Misteriosamente, come erano arrivate, le cavallette se ne andavano. Avevano smesso di strisciare, avevano lasciato il suolo. Una nuvola traslucida, colorata come la madreperla, si dirigeva verso nord-ovest, attraversando il sole. La prateria era completamente pelata, non era rimasto un solo filo d'erba.